pane a casa gliel'ha sempre portato, no? Ma per dirti, non è certamente la vita degli anni puri che sono passati, no? Di certo, quello no, no, non posso dire che siano come quelli, però si sa, il progresso è per quello, e va avanti anche la qualità della vita, no? Interessante avere sempre la luce, la buia, e il resto ce lo dobbiamo coltivare noi, insomma, ecco, il sistema di vita, o Luca. Così è. E almeno tu ci sei arrivato, io a me ne manca altre 30 arrivare in due o giù. Lo so Luca, tu sei giovane ancora, ma io ti auguro tutto il bene di questo mondo, ci mancherebbe altro, figurati, per come voglio bene le persone io, lui, ma tutti, pure lui, sia lui che vuole averne fatto male o vuole averne anche fregato, per dire, ma veramente è successo, però sempre nella vita qualcuno che ti frega, più fumo, ha pensato di essere più fumo, e allora mai, perché ho lasciato perdere, perché se no la mocca da saltare un naso, me ne raccavo, quando buio io, ma comunque non è un problema. Vediamo chi era che voleva entrare, avanti. Ciao Giulio, ciao anche a Luca, buonasera. Ciao Claudio, vabbè, tutto bene, c'è Luca, ci dovrebbe essere Gonzalo in quel Ricci per il momento, e anche Gian Maria in quel Ricci, perché appunto forse è impegnato col telefono Gian Maria. E Gonzalo invece deve essere con la cucina, il cuscino della Gabria, avanti di là. Ci lascia anche giù della Gabria, grazie. Allora, mi ha cacciato la cattria, mi ha attaccato il cuscino al mondo del pantalone, e mi ha cacciato la cattria, allora. No, gli si è attaccato il nastrino e lui ha subito rimediato, lo sta aggiustando, capito? Così è, ho capito. Va bene, buonasera a tutti comunque. Avanti Luca. Buonasera Cla. E beh, come va oggi? Come va? Sempre lo stesso. Continuiamo a portare gli occhiali, così mi ha detto l'oculista, ci siamo sentiti stamattina. Mi ha pensato a portare gli occhiali anche a casa per vedere un po' se vedo qualcosa in più, comunque. Diciamo che è sempre la stessa cosa, non è che cambia molto. Ma vedi, ho offuscato in pratica adesso. Cosa? Vedi, ho offuscato, così. Ho detto adesso vedi offuscato in pratica. Ehi, ascolta un bel cupo. Con questa radio sto usando 140, non so. Sarà il cavolino, perché a Giulio l'ho sento molto squillante, te ti sento un po' cupo. Sì, l'ho soccato, ho tutto in bencio, vabbè, pazienza. Cambierà, cosa vuoi ti dica. Avanti Giulio. Ok, sì, già cambia, vedrai che già cambia. Ci vuole tempo ma già cambia. È successo l'amica di mia moglie, lo stesso discorso tuo, perciò signora Gerolama, anche lì era in quelle condizioni perché ha avuto proprio esattamente la stessa cosa. Eppure col tempo si è rimesso tutto a posto come prima, dunque è solo questo il tempo, perché lo sappiamo benissimo, all'ammalarsi ci vuole un attimo, a guarire ci vuole del tempo, ma in tutte le cose, in tutte le situazioni di malattia, capito? Succede così, speriamo che guarisca il più alto presto possibile, però non disperare, perché il tempo, guarda, è un ultimo consigliere, lasciagli il tempo che è necessario, vedrai che tutto si risolve qua, capito? Oh, la pesata Madonna. Dipendi, sono Luca. E che avevi questa trombetta? Ah, io questa trombetta, chi è? Bubu. Cazzo, che vantaggio mi dico oggi, che sono malacchino. Grazie, tu sei questa trombetta. No, boh, non lo so, non ho guardato nemmeno il mito per vedere il segnale. Vabbè, dai, mi prendi tu di nuovo qua, visto che deve essere sì, allontanato o Filippo. Ma chi era questo che è entrato con la tromba? Non so chi è, avanti. Avanti, trombettiere! combattesse. No, ero io che ho come ho commutato, capito? Via, ed è così. Come stai andando, Luca? Hai tonalità tutte basse, non sento gli acuti. Cosa stai usando? L'MB4, ok. Allora, ti dico subito, il microfono è a 7, ma chi è a 6. A 6? Ma i toni c'hai? No, l'MB4 non c'ha niente. Capito. Ma io lo sento qualche altro giorno ti ho sentito più amplificato, più chiaro di modulazione, nel senso più acuti e meno bassi. Oggi sento solo un po' di bassi, boh, non so, sarà questa radio, un po' la colonnina, differente da quella del 430. Voi mi state ascoltando bene, non mi avete detto niente, quindi sicuramente questa colonnina che è un po' così, eh. Ma io ti ascolto un po' gracchiante, Ocla. Guarda un po', aumentando il microfono si è peggiorato, così ho aumentato solo il microfono, Sì, ma già va bene, un po' gracchiante, mi dice, c'ho questo cacchio di MC85 che non è un granché, capito? Non è un granché, l'ho preso usato, non te lo metto al 908, non so. Ciao, grazie, buonasera anche a te, ben sentito. Anche tu Giulio mi senti gracchiante? Sì, leggermente, però diciamo che già è accettabile la modulazione. Non è così brutta, Sì, un piccolo gracchiamento già c'è, però è una cosa accettabilissima. Ora prova a cercare il microfono qui. Andiamo a vedere se c'è questo cacchio di MC85, perché 60 ce li ho tutti impegnati, se no comunque esco col 430. Aspetta un attimo, cambio microfono. Avanti, grazie. Infatti non è la tua modulazione perfetta, caro Claudio. Questa è così, non è quella bella irritante. Sì, gliel'ho già detto anche Luca, dunque. Ebbene, mi saprete lì, così sarai. E deve essere inculato lì già, piantato in uno. E mi ne ha trattato, ho visto che c'era anche l'altra un po' sfilacciata, allora gli ho dato una ripassata anche a quello. Da salvaggi che cucini, un mese e mezzo. Luigi, quando si invece arriva la patria, riccia a veriggiare, invece la salve ad attaccare. La striscia dura, magari lo primo dei due cristalli da trattenere al cuscino. Bella vita, sentito anche là, la striscia dura, Bianca. Mamma mia, sei un fischio, Ocla. Ma io proverei prima un 60 all'inizio 140. Vedi un po', magari così sai come eliminare quell'85. E proverei prima un 60. Cosa c'è un fischio qua? Non è un fischio. Innescando, in più sei gracchiante. Gracchiando anche questo? Ehi! Peggio di prima, peggio di chi due? Infatti c'è anche un innesco, oltre al vecchiamento c'è anche un innesco, sì, quell'altro era più pulito. Vabbè, ciao sistema. Sai cos'è il problema di Claudio? Sai qual è, Luca? Che non ha microfoni, capito? Non ne ha nemmeno uno. Ma non ha quindi via, la bubu. Oh, yeah. Vabbè, dai, ripeti Luca. Ehi, visto su internet la sua penultima stazione, diciamo, dai, perché poi ha acquistato ancora altre robe. Sicché quando si decide a mettere la foto, chissà che verrà voglia, vedremo la nuova anche, se no tocca andare di passona, e allora di guccia buru un caffè di guccia. Senti. Hola, ecco qua. Siamo tornati alla normalità. Nuova batteria LMC nel 908. E mi avevo dimenticato un'altra batteria. Adesso gli ho messo la batteria. Luca, ti ho detto, quando vuoi, io sono sempre qua, non butto mai fuori a nessuno. Quando hai voglia di venire a trovarmi, sai dove abiti. Qual è il tuo problema? Dimmi, qual è il tuo problema? Vieni, buh. Mi sa che conviene di più, perché ormai con la foto l'ho vista anche troppe volte. Quella foto? Con la foto non c'è niente. Cos'è? Quella foto era proprio per aprire il sito della come si chiama? Di QRZ, adesso deve venire Massimiliano Archimede, GUP, mi deve fare le foto nuove, inserire tutto lo shack nuovo, che non è baracchina, va, assolutamente. Poi se ti vuoi illuminare, la foto ce l'ha Mastro Giulio, vero Mastro Giulio? Ce l'ha negli occhi, ce l'ha la foto Mastro Giulio. E infatti è quello che volevo dire io, se ti vuoi rifare gli occhi, Luca, o vai da lui e te li puoi rifare tranquillamente alla grande. Perciò, se poi ti fa piacere, se te lo puoi mettere, Claudio, butta della macchina fotografica, e poi ti vai, ti posso la cornice e te la picchi in cameretta o in camera da letto, la fotografia della sua stazione. Capito, Luca? Sì, e beh, non hanno mai regolato la macchina fotografica, sì. Certo. Però bisogna avere, se sono ben lucido, di fare la fotografia, e io sono un problema. Avanti, grazie. Ci vado io così, dopo mi metto la fotografia su internet e io mi metto lì con le cuffie e mi vanto, questa è la mia stazione piccolina. E la prete è stata bene di fare così, così. Diciamo che ti fai pubblicità a zero costo, o grazie. Ocla, l'ha pensata bene? L'ha pensata bene, sì. Adesso, grazie, siamo tornati alla normalità, così è. Adesso la mia voce mascola. Adesso è proprio masculaccia. Così va a dare a me il grande incendio, così. Alzura paria, un grancio paria, dici grazie. Sta parlando senza batteria. Dudu, non te ne sei accorto da prima. No, perché accende lo stesso che prende l'alimentazione dal coso, dalla radio 908, capito? Però non amplifica, e quindi stavo uscendo senza compressore, senza preamplificazione, senza niente con questo innesto. Devo controllare anche l'85, perché mi sembra strano che gracchi. Non c'è, sicuramente anche lì c'è la batteria che è mezzo andata. Sono tutti i microfoni che ho dentro l'armadio, ogni tanto li tolgo per farli andare, ma o mi decido di idratarli, o se no ne devo con tutti di batterie, li conservo, perché altrimenti si rovinano. KK. Va bene. Così è, Luca. Adesso va bene? La bomba adesso è. Sì, no, con l'85 tanto a me che provo a metterlo qua. Non volevo mettere. No, c'è le connessioni, uno Yaesu, uno Icom. Sono tutti i microfoni che uso con le varie radio che ho, Luca, se no sai quante volte me li chiedono a darli. Poi mi servono e no. Io sono molto avanti del 60, però i 60 sono tutti occupati, tutti, quindi è così, va bene, quando vuoi vieni, non c'è problema, tanto adesso devo fare le foto nuove e mettere aggiornare qrz.com, capito? lì, non gli darei il progettino mio, i diritti d'autore sono sempre miei, ricordati, perché se, ossia gli ebbi a cui portano l'occhio, non si sa mai, perché alle volte la visita degli amici può essere per interesse, perciò stai attento, perché se no i diritti d'autore li reclamo su di te io e non su di lui, va bene? No, non ti preoccupare, ho provato un sacco di ieri a copiare il tuo lavoro, ma no, non avrei riuscito. Mi ha giovito uno, senza far nome, fuori Sassari, mi ha invitato, ho studiato il tuo lavoro, tanto io non ho giocato nulla, io gli ho dato la tanta vuota a un mio carissimo amico, l'ha diritto falegname, ha progettato lui, ha fatto lui, non ha fatto altro che suonarmi il campanello. E salire con l'attrezzatura, perché nessuno riusciva a capire come mai chissà base, ma due bedi solo, due bedi no, affacciata al muro che tu conosci, no? E uno e due di là, dice ma dove fai la brava, abbasciati, tu abbasciati, hanno visto che è tassellato con i giornieri che si può abbasciarsi a sul caldo, dice no, questo è un capolavoro, è un capolavoro, ma tu sei convinto che Marco Giulio sia buccia di gioca. vabbè, quello è così, Ocla. E appunto, sicché Luca adesso lo sai, se hai per caso intenzione di copiare, ricordati che devi fare prima passare da me, devi fare il contrattino con me. Ok, Luca? Sì, salgo con Bocnot e prendo le misure. Se vuoi ti dopo lo metto elettronico di dopo. Però ti manca una cosa, ci manca, il metro è una cosa, ma poi ci vuole anche un pochino di capacità, ci vuole. Lì forse, non lo so, forse Graziano potrebbe anche farlo, forse. Graziano, tu cosa ne dici? Sedia scorrevole e decidere su quale microfono vuoi parlare. A che N12, capito? Viene 6 in linea centrale e 6 viene in linea laterale, che Giulio sa di cosa sto parlando. Tutte attive, le radio mie sono tutte attive, accendono tutte, io non faccio altro che commutare, c'ho il commutatore 3, 3, 6 e 3, 9, capito? C'ho un commutatore a 3 ingressi, 9 uscite, tutti accoppiati. E poi devo stare attento perché quando cammino c'ho tutti i cavi in mezzo ai piedi, tutto, è un casino, no, capito Giù? Mai a capri, non si deve vedere alcuno di capo, tutti nascosti, tutti bellissimi, tutti ben sistemati, ma aveva assolutamente la piastra di massa già fatto, grazie, ma non così mi sembri. Guarda che quello che hai visto tu, vabbè, tutta roba di governo e dunque è roba di oggi, è da rotta mai in pratica di Mulimo. Quello stiamo parlando di stazione radioamatoriale, no, no di aeronautica militare o esercito militare, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di radioamatoriali, dunque stazione privata, no, non statale, è tutta un'altra cosa. Capito? Tu sei esempio, non vedi un filo ai queste stazioni. E anche tu sei convinto che da Claudio si vede qualche filo. Forse non ha così addosticato la Ciappi o Grazia. Sempre a casa, no? Non riesci mai, e quindi mettiamo sistema. Ma ti sei dimenticato di una cosa molto importante, che già dall'anno scorso c'è il sistema di allarme. Appunto, anche quello, certo. E magari ci puoi mettere anche le videocamere, non si sa mai, così all'insaputa di chiunque, di tutti. Anche all'insaputa di tui, così lo sai solo tu e basta. Ui, ui, ui. Grazie a lì. Dai, quando ti invita Graziano ti consiglio, cioè quando ti invita Claudio ti consiglio di andare a vedere, perché è bellissimo, e puoi rifare gli occhi, che puoi rifare, guarda, te lo posso garantire. Ma quando vado con Furgone, a seguo camion, un tracci, già basta già, Claudio. Vedi la vira. Massimiliano Muro, vero, bestamento mio, grazie a te, fai un bel niente, bisogna fare fila, senza fila, KK, ciao Massimiliano, buonasera, avanti. Buongiorno, Luca, non so ancora che c'è l'ascolto, e allora Graziano, qua la fila di su, va, sono la parte in alto, sono le altre. Se ne è aggiunta un'altra la linea di sopra, per cui siete dello sci, avevo il 701, sta attento, non ti allaga, sai, chi fughi c'è di sopra, il vostro vuole a Trubiano, mette in massa a torra. Allora, Giulio ci può, fatto sotto a Cosa, Graziano, e quello laterale a Cosa, Giulio. Ma Giulio se lo vediamo tutto un ripiano, che ha fatto, bello, se no ti rappoggia a fare roba, così è giusto. Beh sì, no, dobbiamo mobilitare qui un po' la massata, fare spazio per tenerla poi qua, tutta quella roba. No, ma io mi accontento, guarda, io sono molto semplice. Intanto Graziano ha detto una cosa bellissima poco fa, che dice prima lo bianziano, dunque io sono un bianziano. Allora a questo punto è un vantaggio per me. Io voglio, mi sento di andare molto lontano. Quella che c'è al centro, con quel bel quadrante grande, eccetera, eccetera, che si chiama 7004, e poi Buglio, quello che c'era, perlomeno quando sono andato io, che c'era tutto quanto a sinistra, quando ci mettiamo di fronte a guardare il radio, che è un affarino, molto bello, con quattro osmittere, no, basta, io sono contento, così mi va benissimo. Poi il resto sarà Claudio a dividere per tutti voi, non lo so io, ma io sono andato così qua. In uscio, quindi a te 7004, sto scrivendo più il DAC, va bene, con microfoni naturalmente, SM20 e Turner Super Sidery. E tu Graziago già vuoi, intanto Massimiliano, lo gioco già vuoi, tu non ne comprendi nulla, ma io lo so già cosa arrabbiati. E a tu cosa vuoi Graziago? Dalla parte di sotto ci sono due radio, linea completa eccezionale, va bene quella? Perfetto, allora per te tutta la linea completa del 430, io, vabbè, a Luca, Flipper, vediamo lo 140, e Massimiliano, un bel problema Massimiliano, è avanzata ghiscia biumana di tutti. Va bene, lo stesso, cara, e vorrà dire che ne prenderò quella, con cui devo fare uno sopra l'altro, che c'è lì nell'angolo, va bene anche quello lì, là. Giustamente con i microfoni, gli alimentatori, io sono i 20, vabbè, comprami, già lo sai, prima di andare, comprami la colonnina esterna. Già ordinata, l'SP8, già ordinata, tanto l'amico nostro ha detto che non la gatta, allucinante. Non lo faccio, il 140 con sotto. No, l'ho attaccato, l'ho provato poco fa e c'è la batteria scarica, quindi fischia. E l'MC60 sto usando. Mi sbaglio pure, non è attacco di 908 questo, per lo sgancio. Va bene, no, va bene la radio, bella radio, ok. Giulia, per te. Ok, ma si vedrà. No, io non ho voluto essere troppo sfacciato, capito? Se no il Milone è piaciuto anche a me, caro Guido, ma siccome è il nuovo, quello, l'ultimo arrivato, io quello glielo lascio godere a Claudio, poi sarà lui a darlo a chi crede, capito? E dunque non voglio essere troppo sfacciato, per carità. Io poi da Riva Giulio manda benissimo un 7204 e un DAC, soprattutto. E ve ne accendo tutti e due, non è che non accendo uno, me accendo tutti e due, me li metto davanti, bene, me ne guardo, se per caso siamo di sera, magari per vedere bene tutte le cose, mi muovo pure i picchiti, così almeno vedo tutti i numeri, vedo tutto bene, capito? O Massimiliano. Io mi accontento anche di quello, poi per il resto lasciamo stare il tempo, lo prenderemo come viene. Bene, va così, qua. Aspetta che ti saluto, che volevo un attimino allontanare dalla radio, ma rimango in ascolto, ma non posso più stare qua. Vi ascolto volentieri. Va bene, se vuoi il Milone, prendete il Milone, lasciano il 7004, poi io, quando gli arriverà il Pro 3, mi prendete quello, va bene lo stesso. Ma ti saluto, ciao Graziano, Luca, Giulio e a te Claudio, magari riprendo dopo. Avanti Claudio. Allora, questo qua è di Giulio, questo è il DAC, quindi è di Giulio, grazie, non trovo sua, non trovo sua, chi continuo esci, vedi che esci tutto mari e non va bene, ma ci vedrà. Allora, poi ti lascio andare subito velocemente, ti ricordo una cosa, che una me la dovete lasciare per mettere dentro la bara, perché ve lo dico tranquillamente, con molta certezza, quando è morto Angelo HTS, Angelo Pifo di Alghero, che era un mio carissimo amico V2S, abbiamo fatto un patto con la moglie, abbiamo fatto un patto, o me lo prendevo io il 140 e io ho detto di no, e tutti quelli che il 440 e tutti quelli che c'erano hanno detto di no lo stesso, ci siamo guardati in faccia, abbiamo preso il 440 e gliel'abbiamo messo dentro la bara. Ma io già ti lascio il 80, va, devo aprire lo stesso. Ma se sono complicato quello. Allora mi intende il muro. Mi intende il muro da mocio. Va bene, Graziano, questo è il DAC, questo ricordati, scrivito DAC, quando sei hai la possibilità di andare a guardare al computer. Questa sigla, DAC, Mark 10, SSB, tu vai a guardarlo, questo è il più grande baracchino al mondo, non ce ne sono altri più grandi di questi. E vedi che c'è male. Vabbè, se lo metto così allo spreco, ci mettiamo questo da 10 euro dentro, che già c'è lo stesso anche da lì sotto. E vabbè, vero Giulio? Guarda, grazie, intanto quel dacchino ha 4 smittole, 4 io, grazie, non 1, 4, ma, e sono degli smittoli in cinemascope, anche sono manni, un bel manni, sì, che ti puoi immaginare, tutto vedo cromato, tutto di lusso, proprio come piace a me, e quando lo accendi non hai bisogno nemmeno di accendere la luce nella stanza, perché le 4 smittole ti illuminano la stanza, sì, che ti puoi immaginare. Poi c'è l'altro lo stesso, ha un quadrante che quello è in super di cinemascope, grazie, il 7004, è lì leggi tutto quello che devi leggere da questo obiettivo. Tu presente ce l'hai una radio di quelli antichi di una volta con la scala parlante in vetro, di taranta scritta, eccetera, eccetera. Non si manda la scala parlante lì, tanto per darti un'idea, grazie. Cosa si chiama? Un DAC? DAC, DAC, capito? qui. Allora, com'è questo che sto usando io qui? TAC, la marca è TAC, T-A-C. Oh, yeah. Ma direi che la fotocopia è dubbia, ma grazie, cioè, cla. Ha detto sì, ma lì c'è con la K, DAC, Delta Alfa Kilo, con la K, capito? Commenta chilometri, chilometri biciclette. Guarda, di questi esemplari ce ne sono tre in Sardegna, e ce ne ho in Sardegna, no a Sassari, e ce l'ho io, Marco Scorpion e Walter Diaboliche, non ce l'ha altro nessuno. Questo è TAC, TAC. Ma con la C di Como o con la K? Com'è te che ti ho dato? Con la C di Como. No, allora non è chi sa serie, allora chi c'è con la K di chilometri? DAC Mark 10, DAC Mark 10 SSB. E infatti sotto c'è scritto radiotelefone, come scritto. A chi dice proprio una base radiotelefono, ma tu non l'hai mai vista, Graziano, tu non sai manco come è fatta, perché sono delle radio americane che no, è uno spettacolo. Ti ho detto che questi l'ho pagata quanti manca F? L'ho pagata $450, capito? Intorno alle 500 euro, una cosa del genere mi è venuta, tra trasporto e tutto. Dal 1983 e dal 93 ho iniziato ad avere qualche radio in più perché sono diventato radioamatore, ma sacrifici ne ho fatto tanti, credimi, non ho mai chiesto l'aiuto di nessuno, quindi pian pianino mi sono organizzato, una oggi, una domani. C'era un periodo che facevo proprio un anno intero di sacrificio lavorando con i negri per avere qualcosa in più per potermi bilanciare le mie spese proprio per il mio hobby, che è questo, e alla fine ci sono riuscito. Tu immaginati che ho fatto un altro sacrificio, che è quello della casa. Io suono piano e quando sono morti i miei suoceri sono sceso qua, chiaramente spendendo altri quattrini, perché ho dovuto dare la parte a mio cognato. Questa casa è rimasta a mia moglie e a mio cognato, sono in due, quindi io ho dovuto dare la parte a lui per prendermi questa, perché è più grande, c'è una stanza in più rispetto a quella che avevo io. Proprio perché il mio sogno era avere la mia vera e propria sala radio. Questa è una vera e propria sala radio, non è una stazione radio. Una stazione radio è uno che ha un blocco in un angolo, in un sistema, in una cosa, e quindi rimane lì e basta. Questa è una vera sala radio, è 6 metri per 3, 18 metri quadri, quindi non è che una stanzetta da niente. Giulio l'ha vista. Non è ancora terminata perché manca sempre quell'altra parte, Giulio, che dobbiamo fare. Adesso appena respiriamo un po' ci mettiamo nuovamente all'opera per effettuare l'altra parte che abbiamo letto, appena tiriamo via quell'armadio. Capito, grazie a anni, e sottolineo anni di sacrificio, di buona volontà e di tanta passione. Cambio. Un radioamatore non è che può avere un'antenna con lui, tutta la tecnologia. seminata come la mia, ad esempio, come la tua in questo momento, per dire, no? E ci vogliono anche antenne, e le antenne in proporzione ad apparecchiature costano anche di più. Se uno si va a comprare antenne direttive di un certo calibro, costano centinaia e centinaia di euro, grazie, si crede, vedi bene. È una cosa praticamente a livello professionale, non è che puoi dire di no, è così, in realtà è così, capito? Dipende, fai girare tu, grazie, vai. Sono più attente di voi, sono a queste cose qua. La buca, dai, ci salutiamo, ci saluto perlomeno e ci sentiamo eventualmente domani, domani dai domenica, che abbiamo tutto il tempo di, per sentirci. Ciao Claudio, grazie della chiacchierata, una stretta di mano, un abbraccio all'amico, alle prossime, dai, ascolto il tuo filalino e poi chiudo qua. Ciao Giulio, grazie anche a te delle due chiacchiere, dai, ci aggiorniamo, fammi bene, buon fine serata, buona cena e buon tutto. Alle prossime, sempre forza Juve. Infatti, speriamo bene, siamo andati male con la... ma non male male, ma comunque diciamo che c'è un bel filo di speranza, già c'è quando si rifà la partita a Torino, e comunque speriamo che vinca almeno lunedì, se vinciamo lunedì abbiamo vinto il campionato, a tutto sommato, perché rimangono tre partite, rimangono, sono, sarebbero 9 punti, la Juve ne ha 8 di vantaggio, se vince lunedì, e siccome aveva vinto la partita diretta prima, e dunque ha un punto vantaggio, praticamente come se ne avesse 9. Se basta vincere con lo Sassuolo, siamo campione d'Italia per la terza volta consecutiva. Ok, grazie ancora qua delle quattro chiacchiere, alle prossime, ciao ciao. Ciao ciao Giulio, buona serata. Dai che vai, che sta roba che non molla, ma la fantasia, non ha fatto due vibrare umila, va bene. Speriamo bene domani, cioè lunedì, ci sentiamo, ciao, buona cena alle prossime Giuliette, ciao, grazie. Ok, ciao ciao. Dimmi Massimiliano. Dimmi. Ma è 10 Massimiliano.